Mario Vattani è figlio d'arte, nel senso che anche il papà è stato ambasciatore e tutta la famiglia è legata a questi ruoli, quindi già una forma di nepotismo che un po' fa pensare, insomma, no? Quindi insomma le cose non sono per noi, insomma, non appaiono poi così lusinghiere, ma per di più la persona stessa, insomma, questo Mario Vattani ha nel suo passato, che non è un passato solo giovanile, è un passato di uomo anche maturo, non ha mai nascosto le sue simpatie e le sue vocazioni di carattere fascista, quindi su questo noi siamo irremovibili e continueremo nel nostro percorso, insomma, ecco, contro questa decisione, perché la riteniamo davvero inopportuna, ma inopportuna è un eufemismo, insomma una persona che rivendica un'appartenenza fascista non può rappresentare l'Italia perché la nostra Costituzione dice che siamo che è una Costituzione antifascista, quindi partiamo da questo documento, che è il documento fondamentale della nostra Repubblica, che laddove noi siamo, insomma, voglio dire, dichiaratamente, ecco, antifascisti, non è tollerabile che questa persona possa esprimersi e rappresentare uno Stato che si ritiene che è antifascista, quando lui assolutamente non lo è. Credo che proprio non abbia niente da condividere con i nostri valori. Già in passato Vattani era stato sospeso da un ruolo diplomatico proprio perché durante un concerto lui suona, diciamo, a una band neofascista, aveva fatto un saluto romano e quindi lo Stato lo aveva ritenuto non adeguato, insomma, per ricoprire ruoli diplomatici. Vi siete fatti un'idea del perché si sia arrivati invece a questa nomina? No, sinceramente io personalmente no, non mi faccio idea e spero, insomma, di non dovere neanche fare dei cattivi pensieri rispetto al fatto che noi dobbiamo premiare una persona che ha questi livelli di responsabilità, perché è una responsabilità importante quella che lui ha espresso, quello di riconoscersi contro la nostra Costituzione, contro il nostro Stato democratico. La cosa fa veramente pensare, insomma. La settimana scorsa il deputato Andrea De Maria ha annunciato che ha presentato un'interrogazione su questo caso, quindi insomma siete in contatto anche con forze politiche che non accettano questa nomina, non è una battaglia solo vostra? No, non è una battaglia solo nostra, è stata fatta dal presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, un incontro anche di conferenza stampa nella sede, insomma, della Camera, laddove erano presenti anche altre forze politiche oltre al PD, che mi pare comunque sia non con un parere unanime, ma c'era il deputato Frattoianni, c'era un deputato di Italia Viva, quindi credo che sia la nostra posizione sia trasversale anche ad altri partiti che si riconoscono nei valori della nostra Costituzione, quindi mi auguro che ci sia, ci auguriamo tutti che ci sia un ripensamento da parte degli organi che hanno fatto questa proposta e che possa essere rimossa, perché noi non ci fermeremo. Questa prima tappa che abbiamo fatto la settimana scorsa a Marzabotto, ne seguirà un'altra a breve nel comune di Sant'Anna di Stazzema, ma noi poi proseguiremo in altri territori che sono simbolo, insomma, di resistenza a quello che è stato il fascismo e il nazismo.